Friuli nel mondo, 202esima trasmissione dedicata agli immigrati. Festival della canzone friulana 1970. Vi trasmettiamo, cari amici radioascoltatori, il primo gruppo di canzoni friulane dell'undicesima edizione del Festival di Pradamano svoltosi, come nel passato, nell'incantevole cornice del Parco Giacomelli trasformata in un'autentica rapsodia di luci e di colori. Il largo consenso di critica e la calorosa accoglienza del numeroso pubblico presente hanno confermato ancora una volta la validità della manifestazione prettamente friulana, che ha visto in gara autori dei testi poetici, musicali e cantanti dilettanti, tutti di casa nostra. Con il complesso tipico friulano diretto da Olinto Contardo, ascoltate pertanto C'è sfortunat cosoi di Marani. Canta Claudio Del Tin. C'è sfortunat cosoi, gli sfemini smillasi, non sai cerca di fa, non sai cerca di fa. C'è brut destin coai, gli sfemini smistiampi, non sai cerca di fa, non sai cerca di fa. Ovevi un amorose e si volevi in ben, ovevi di sposarsi all'iere già tu pronto, ma provi sul più bel e gli è scampato via, così io hai perduto anche la ne. C'è sfortuna con soi, il femminismo in lasi, non sai cerca di fa, non sai cerca di fa. C'è brutto stinco hai, il femminismo in schiampi, non sai cerca di fa, non sai cerca di fa. Accade un altro che mi ha donato il cuore e mi dicevi sempre tu sei il primo amore, ma al caso hai saputo che ieri già sposato, che a chiesa aveva l'ombrundo di scuola. C'è sfortuna che so il femminismo in lassi, non sai ce che ha di fa, non sai ce che ha di fa. C'è brutto stinco hai il femminismo in schiampi, non sai ce che ha di fa, non sai ce che ha di fa. All'ultimo hai chiata la femmine più giuste, più sante di che smo, però è a un di fier che hai tutti gli seris i plasla pure io ve soltalien. C'è sfortuna cosoi, gli sfemminismi lassi, non sai ce che hai di fa, non sai ce che hai di fa. C'è brutto destinco hai, gli sfemminismi schiampi, non sai ce che hai di fa, non sai ce che hai di fa. Di Candotti Paroni, cantata da Gianfranco Fedel, Tu sei par me. Nome tu, frutto te me, tu sas da mi il tuo calo. Come soreli lassù dal cil, alta tutti il mondo in ti. Che il calor che tu mi das, al fas nas in chisti cu, la speranza di restar, ti resta sempre con te, non sta la lontan di me, sempre sempre ti dirai, tanti dolci paralutis, parinesti grand amor. Reste, reste come ninine, parciri il vero amor. Io ti giuri, o soi sincer, nome tu, tu sei sparme. Calor che tu mi das, a al fas nas in chistico, la speranza di restare sempre con te, non sta la lontan di me, sempre ti dirai, tanti dolci parolutis, vari nestri grand amor. Reste con me, ninine, parciri il vero amor. Io ti zuri, o soi sincero, no mentu, tu sei spar me. Nell'interpretazione di Dario Zampa, A Call in His Ways, di Candotti Visentini. A call in his voice, are you al me parat l'autunno col suo freddo e le gialle rivar anche il megur come le malat pare c'è alla piardut il soppi e l'amor lontan as voling li suoi il monta al resto senza color sarà così per la nostra vita se piara tanti e che il fuoco di amore attorno in gli suoi col biel dall'istat il mondo tutto intero cambia le tornate mia dite di sì tan ben mi ha giurato come tal me cur l'amore le tornate. Lontan as voling li suoi il monta al resto senza color sarà così per la nostra vita se piara tanti e che il fuoco di amor biele dall'istat del mondo tutto intero tan biele le tornat mia dite di sì tan ben mi ha giurat come tal me cur l'amore le tornat l'amore le tornat. Gianfranco Fedel canta Fortunate Gioventut di Bressan Tuni. Se pezza diventa viei, cula moda che è ue, io e c'è cotuli scurtutis, io e c'è mossi salaie, benedette in gioventù, sane frecce fate bene, zovi bie intelligens, e gli sfrutti scuio gli ste, quei vivan sulla luna, so de glas in fondo al mar, tu giaceri la fortuna, già da tan forse l'un fiar, la fortuna è dai zovi, noi dai vie in bambini, lore anche in ti la luna, lore anche in ti il paradiso. frecce fate bene, zovim bi intelligens, e li strutti scui li stem, quei vivan sulla luna, so de glas in fondo al mar, tu c'ha c'eri la fortuna, c'ha da tan forse l'unfia, la fortuna è dai zovim, no da viei bambini. Lore anche in ti la luna, lore anche in ti il paradiso. E infine Maria Gasparini interpreta L'amor su Marte di Dante e Aldo Visentini. Passas vicin la lune, vincin tu dome rumor, e su Marte in te cuiete, o sin la sapa l'amor. Voce viene che covute, covin fat la su in tanci, lassù in alfra tanti stelis che tremas pan di illusor, alle un mon che dusse in maghe un invita fa l'amor. Voce biele che covute su muros non steis pietà, vai su Marte in te cuiete e l'amor ascurirà. Sin passas vicin la lune, c'è biele che covute su muros non stai spietà, vai su Marte in te cuiete e l'amor ascurirà. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.